24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo elettori il bagno alla turca. Sapete che questa è la struttura che accoglierà Silvio Berlusconi ai servizi sociali? Signor, no. Non verrò più allora. Veramente? Sì, sì. No, non è possibile. Vabbè, non tutti l'hanno presa benissimo, questa signora, un signor. Però c'è anche chi dice è contento, dai, lo convocheremo qui, giocherà a tombola con noi. C'è chi è un po' preoccupato, come il direttore di questa casa di cura per anziani, che dice mamma mia, ci assedieranno i giornalisti, adesso sarà un disastro. C'è invece chi ha fatto i calcoli, Repubblica, insomma, 4 ore a settimana per 10 mesi, 168 ore, 7 giorni, cioè 7 giorni alla fin fine, 7 giorni di pena per questa vicenda. E poi c'è Berlusconi che non si dà pace, continua a dire i suoi io da rieducare, io che ho avuto l'educazione migliore da mia mamma, io che potrei insegnare agli assistenti sociali come si vive e dovrò sentire le loro domande per capire se sono redento. Comunque la pensiate, eccoci qua alle 6:33 minuti. Cari italiani, questo è 24 mattino, Miriam Lucchetti in redazione, tornata, sì, c'era anche ieri, ma insomma ieri ha fatto la debosciata, si è svegliata tardi, e c'è Peter Bescapè in regia, come sempre, il nostro alpino, che fa un cenno di assenso, dice, sono qua, eccoci, è pronto allora il Parlamento, può aprire? Evviva! Dai! Ha un caffè, si può avere? Il caffè! Volentieri a tutti quanti. Parlamento. Tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori? Trossere col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. Oh, come mi mancava, mi mancava tanto quanto Paola Saluzzi, più o meno, questa signora. Adesso però, insomma, io come dovrei sentire? Ma no. Ma buongiorno, comandante Alino. Buongiorno, generalessa, come va? Siamo pronti, buongiorno a tutti, mi raccomando, belli, compatti, uniti, sorridenti, combattivi, guerrieri, e iniziamo la giornata. Ce li hai i numeri per la tombola? 72! Numeri della tombola, ma te la vedi la scelta? Sarà tutto da seguire, vedremo come andrà, tu sai, vedremo. Che il mio ecumenico buon umore e ottimismo, io dico, vedremo come andrà. Allora, registro anche che Cesano Boscone, dove andrà Berlusconi, è anche il paese dove sta scontando un percorso riabilitativo Massimo Tartaglia, ve lo ricordate? Quello che gli tirò in faccia una statua del Duomo. E corsi e ricorsi della storia, quando si dice il mondo è piccolo, no? Quando incontri una persona dall'altra parte del mondo e dici, ma guarda te il mondo come è piccolo. È un condominio, dipende sempre da chi incontri. Esatto. Saluto anche Luca Dini, nostro direttorissimo buongiorno. Di Vanity Fair, buongiorno. Caro Luca, te la vedi la scena? Cosa ne pensi, insomma, di questi servizi sociali? 7 giorni, 4 ore a settimana? Che ma dici? Io non farei tanto quel conto lì, perché è evidente che è una condanna simbolica a questo punto. Però l'umiliazione, nel senso, quella cosa io la capisco, insomma. Cioè il fatto di dover accettare di dover essere riabilitato, reinserito, per un uomo così, insomma, è una bella condanna. È una bella condanna. Infatti pare che proprio sia lì che non si tiene ad Arcore, questo in tutti i retroscena che poi leggeremo in rassegna stampa. Paola è lì che dice io, dare direttore, buongiorno tanto, ma sicuramente questo è la parte, come posso, forse la vera condanna è sta anche, potrebbe essere un'ora, non 4 ore, potrebbe essere un'ora come potrebbe essere tutti i giorni, non so come dire, è l'idea di, ma se l'uomo è creativo come è creativo, trasformerà questo in un successo, saprà trasformare anche questo sicuramente in una nuova pagina, una nuova avventura della propria vita, non ci sono dubbi. Poi su tutte le argomentazioni, se sia giusto, leggevo oggi su Repubblica il senatore Casson, insomma, che non dimentica correttamente la sua prima vita, che ha detto sono stati troppo teneri i giudici. Questo poi farà parte della polemica esterna, vedremo che ma esterna o anche interna. Sentite D'Alema che dice, che ieri era porta a porta, credo. Certo, viene da pensare che cittadini meno fortunati, cioè meno ricchi, meno potenti, per reati molto minori vanno semplicemente in prigione, diciamo, punto e basta. Eccolo lì, caro Luca Dini, i meno ricchi e potenti vanno in prigione, è subito polemica, no? D'Alema sempre con quel suo modo un po' strano, che insomma D'Alema ci è andato giù un po' pesante forse? No. Beh, diciamo comunque anche a 78 anni, signore, c'è quel lato lì, insomma. Vabbè. 78 anni forse in galera. Io non sono, come sapete, non sono tenerissimo con il signore, però... Poi proprio D'Alema. Sì, ecco, esatto, ma la persona più simpatica del mondo, diciamolo francamente, diciamolo, la persona che quando uno sente... Immagino passare 4 ore con lui. Esatto. Comunque, vabbè, adesso... Io comincerei a fare un piccolo libro di tutte le battute di Luca Dini a Parlamento. Sì, comincerei a pensarla questa così, cosa. Detto da D'Alema, punto. Luca Dini. Vabbè, ovviamente un abbraccio a Massimo D'Alema, che ci vorrà molto bene da questa mattina, come sempre. Cara Paola... potete almeno voi non mandare la troupe di Sky? Avete già mandato la troupe? Siete già lì? Questo lo ignoro, non sono io ma che siete già lì troupe, a Cesano Boscone, lo so. Ma credo che insomma ci siano informazioni da seguire, le seguiremo, diciamo anche, ma faccio un volo perché nel senso che non voglio trattare di più l'argomento, non è uscito il termine sbagliato, non dovremo Sky, tutti noi, fare tanto sulla vicenda atroce che è successa alla bambina, ragazzina di 14 anni vicino a Torino, a Venaria, un'altra ragazzina che si è uccisa per il web? Allora, siamo tutti compatti, facciamo la testina romana, concentrati anche ovviamente, e siamo concentrati tutti su queste cose. Scusatemi se ogni tanto riporto a temi strettamente familiari, se volete, però parlo dei papà, parlo delle mamme che ci ascoltano in questo momento, 14 anni, vai via perché ti dicono sei brutta, vai via perché ti massacrano via web, lì non perdiamo mai l'attenzione, perché io sto pensando a quelli che l'hanno scritto. Sono sincera, ci sto pensando con pensieri che non sono per niente positivi. Lo so, ma sono guarda, io me ne sono occupato varie volte, positivi, ma no, ma d'accordo. Per le mani questi. Ma d'accordo, però Paola, io devo dire una cosa, ce ne siamo occupati di casi simili, a 14 anni, 13 anni, perché poi chi scrive ha la stessa età. Anche tu avrai scritto, no, queste cose, purtroppo è così. No, perché si è si prendeva in giro anche in maniera crudele, vista con gli occhi di un adulto, no? Assolutamente, però ne stanno capitando troppe. Lo so. Perché... Prima ti prendeva in giro in maniera crudele una classe o una scuola, qui ti prende in giro il resto del mondo perché c'è il web, scusate, questo è vero, però siccome bolle da giorni questa cosa, da ieri, no, ma è chiaro. Io però vorrei entrare sull'argomento. Io alle 8:15 mi occuperò di questo tema, che è la vicenda dello scambio degli embrioni a Roma, con la domanda che oggi poi mi ritrovo su Repubblica, sul Corriere, con la domanda che si fanno un po' tutti, ma a questo punto di chi sono questi figli? Nel senso, di chi sono questi figli? La domanda è: i figli sono di chi se li porta in grembo a questo punto, visto che c'è stato uno scambio di embrioni, oppure i figli sono di chi li ha messi al mondo biologicamente parlando? Perché qui adesso ormai è chiaro che ci sono due mamme che reclamano in qualche modo i figli. Chi la porta in grembo dice: la sto crescendo io, questi gemelli, e quindi sono miei. E la mamma biologica dice: quegli embrioni impiantati sono miei, fecondati, e quindi li rivoglio, una volta che sono partoriti, voglio questi figli. La legge parla abbastanza chiaro, cioè sono della mamma che li porta in grembo. Però dal punto di vista delle battaglie, certo è un gran pasticcio quello che è successo. Tu, Luca Dini, che idea hai sulla questione proprio di chi sono secondo te questi figli? Detto che è una di quelle decisioni impossibili, sono d'accordo con la legge, perché a questo punto sarebbe una crudeltà impossibile da infliggere a quella coppia lì, francamente. Cioè, quindi sono della mamma che sta portando in grembo la gravidanza. È il danno minore. È il danno minore. Sì, detto che un danno c'è stato, cioè è un dramma, certo, per tutti, chiaramente. Paola, tu cosa pensi di questa vicenda? Io penso una cosa fuori legge, che non avrebbero mai dovuto rintracciare i genitori veri. Penso che, visto che è stato fatto un gravissimo errore, si sarebbe dovuto fare il gravissimo errore di perdere la carta con su scritti i nomi dei genitori veri, perché è un atto di crudeltà nei confronti di chissà che quei bambini che cammineranno per strada sono i miei figli, che avranno la mia faccia, il mio volto, il mio DNA, tutto quello che vuoi, ma non puoi dire a una madre: li fai nascere, li porti dentro, respirano con te per 9 mesi, dopodiché grazie, sono i miei figli. È assurdo, i figli sono della madre che li sta portando in grembo, punto. Lo so, però ci sono teorie diverse. Anch'io sono di questa idea. È più complicata la vicenda per il papà, perché voglio dire, la legge appunto garantisce alla madre che porta avanti la gravidanza, da cui mater semper certa, insomma. Quindi la madre è quella, è colei che partorisce. Però il papà, la vicenda qui si complica, perché se è vero che esiste la possibilità per tutti gli uomini di fare un test genetico e per questo disconoscere dei figli che non risultano i propri figli, e a maggior ragione questo non è geneticamente suo figlio, e quindi quello che è il papà vero biologico potrebbe dire: è il mio di figlio. E qui, caro Luca, la faccenda si complica. Guarda, anche lì mi viene, cioè, so che è una saggezza diversa, però mi viene sempre in mente Filomena Marturano, cioè i figli sono di chi li ama e di chi li cresce. In questo caso però anche per il padre, così. Anche per il padre, che dal punto di vista però dei primi 9 mesi fa un po' poco, cioè dal punto di vista tecnico però immagina tutte le aspettative che ci ha investito sopra e quanto li ha voluti. Questo certamente sì. Comunque, Paola, questo è il tema che noi affronteremo alle 8:15, perché io sarò lì come tutti ad ascoltarti, perché è un tema terribile. Da una parte cita saggiamente Filomena Marturano, i figli non si pagano, i figli sono figli, ed è chiaro che quando verrà da sgridarli o quando faranno qualcosa di sbagliato dovrà stare all'altezza dei genitori, che a questo punto questi due genitori devono essere più alti dell'Himalaya. Non solo non dire, ma non pensare mai: non sei figlio mio. No, ma questo no. Certamente. E questo insomma, sono di fronte ad una storia difficilissima queste persone. Io credo che cambierà tutto, perché veramente cambierà tutto quando li vedranno. Perché poi alla fine è così, esatto. Tu per 9 mesi aspetti, poi quando ti vieni in faccia, insomma, da lì in poi tutto cambia. Sì. Speriamo che cambi in positivo. Il dato di fatto, noi avremo anche ospite l'avvocato della non della donna che sta portando avanti la gravidanza, ma della donna che presumibilmente è la madre biologica, diciamo così, per capirci, di questi bambini, che insiste, dice: questi bambini, questi che nasceranno sono di fatto miei, e quindi avanza delle pretese, insomma, su questi figli, perché poteva essere impiantato a me quell'embrione come doveva essere, e quindi potrei a questo punto essere io incinta e portare avanti questa gravidanza. Comunque il tema è molto complesso. Paola, che dici? Dico una cosa folle. Questa donna dovrebbe farsi impiantare l'embrione dell'altra madre. Lo so, ma credo sia successo, credo sia stato proprio uno scambio, solo che non è riuscito a portare avanti la gravidanza. Ci sarebbe solo da sperare questo. Lo so, però questo purtroppo non è successo. Allora, noi andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi rientriamo, ci sono tanti altri temi che vorrò affrontare con Luca Dini, Paola Saluzzi, state con noi. 24 mattino. Ma come? Dell'Utri mi va in Libano per curarsi? E che succede? Lui guarisce e si ammalano gli avvocati. Ma guarda un po'. Caro Marcello, non è tempo di ammalarsi, è tempo di andare in galera. Ma voi siete dei gufi coglioni, perché noi toscani come Renzi abbiamo creato l'Italia con tante cose meravigliose. Voi longobardi soltanto al tempo della pietra, caro signor Milani. Volevo dare un bacione alla Paola Saluzzi. Finalmente la sento stamattina. Paola, sei la numero uno. Sei intelligente, bella, pacata. Sei la donna dei sogni. Complimenti. Ma Alfano e tutti i politici, l'NCD, dove stavano fino a ieri? Che mo' bellano, ma fino a ieri dove stavano? Te lo dico io dove stavano. Stavano là, con Berlusca. Il nuovo centrodestra allegramente ha eletto il buon Alfano presidente. In Forza Italia invece c'è il mugugno da quando Berlusconi ha aperto il pugno. I tempi belli sembrano perduti perché è scappato anche Buonaiuti. Ciao Neda, Felice Poltasso. Oh, il grande Felice è tornato. Allora, Paola Saluzzi, a parte saluto la signora Milani e Milan, ma vabbè, fa niente. No, fa niente. Una creatività strepitosa. No, ma quello in barese, Stefano là. Ma un tripudio. Saluto, eccola. Bacio l'ascoltatore che mi manda complimenti così belli. Dobbiamo mettere Stayin' Alive. Se vuoi cantare, sì, Paola, prego. Puoi anche cantare. Stayin' Alive è meraviglioso. È geniale. Vabbè, di Paola. Però oggi ascolteremo i Bee Gees in altra maniera. Vabbè, però diciamo, devo dire, verità. Paola, tu troppi ammiratori. Adesso Luca Dini, un po' di invidia, cioè neanche una donna, ma su, s'avanzi una donna per Luca Dini, che voglio dire, accoglie tutte, non c'è problema. Non è Longobardo. Luca Dini è adorato. Adorato. Vabbè, insomma, qualche dichiarazione d'amore per Luca Dini, forza donne, avanti, insomma. È un signore a cui si vuol bene. Ogni settimana vi regala vari tipi, vi regala, ecco, cioè, vi regala, nel senso, ecco, regalare proprio non no, è il verbo basta, giusto. Basta solo che io vi dica che cosa non sia successo tra tutte le mie amiche a Sky e non con l'ultima copertina con Roberto Bolle. Meraviglioso, tra l'altro era tutto l'interno che era meraviglioso, non mi riferisco solo al servizio di Roberto Bolle. L'interno, ma cosa significa? Ma quanto è piaciuta quella copertina, come piaciuta, ce la siamo comprata volentieri. Ma di alle tue colleghe, tutte in redazione, compratevi Photoshop, fatevi... La smetta. Non so perché mi è nata questa invidia per la tartaruga di Roberto Bolle. Vabbè, sono cose che capitano. Allora, tra l'altro, tema, no, ecco, caro Luca, avete intervistato nel numero di Vanity Fair Alessandra Moretti, no, che parla del divorzio breve, ma questa del divorzio breve è un'altra. Mamma mia, ma perché se ne parla da 30 anni, da 20 anni, da quando c'è il divorzio più o meno, si parla del divorzio breve? E poi, ma perché dovremmo pensare che stavolta sia la volta buona per farlo? Ma forse perché bisognava farlo tanto tempo fa e alla fine le cose sensate si fanno. Io spero che sia così. Speri che sia così. Penso che sia anche molta più consapevolezza rispetto a qualche anno fa, dei guasti che fa una lunga battaglia. Ci si riprova, insomma, di anche in questa legislatura. È una di quelle cose che tornano, no Paola, tornano ogni tanto. Facciamo il divorzio breve, cioè velocizziamo i tempi per il divorzio per 3 anni, poi insomma, sì. La speranza è che quando si dice tanto tempo, sia come le strade, che improvvisamente vediamo aprirsi e funzionare nel nostro paese. Quando vediamo un nuovo passaggio, una nuova cosa, diciamo che bello, la strada funziona. Non sappiamo che ci sono voluti 50 anni per costruirla, però vale il principio finale. Sintetizzando, speriamo che sia la volta giusta, il passo giusto, perché era ora. Era ora. No, intanto mentre voi parlate, allora le immagini della TV, in questo caso Rai News 24, sta mandando nuovamente quelle che sono le immagini degli scontri in piazza a Roma. Io non so se voi avete visto questi video. Allora, il poliziotto che mette un piede sulla ragazza per terra è stato denunciato, definito un cretino dal capo della polizia, è stato identificato e si è denunciato oggi. Il Corriere della Sera racconta, lo sentiremo in rassegna stampa, non ho visto quella ragazza, l'ho scambiata per uno zaino, cioè pare una difesa surreale quella dell'agente di polizia, e anche perché ci sono altre immagini che girano da alcuni giorni di invece agenti che insomma colpiscono le persone per terra. C'è il vice capo, il vice ministro dell'interno in un'intervista di Repubblica dice porca miseria vedendo queste immagini, ma com'è possibile che la polizia, che alcuni agenti di polizia si comportino così? Tu Luca che idea hai avuto? Perché poi qua qualsiasi cosa dici, ecco siete per i violenti, no, siete per la polizia, no? Sembra che bisogna dividere sempre il mondo tra bianco e nero, no? Sì, devo dire, purtroppo queste cose succedono, cioè, chi si ricorda la Diaz, sono successe queste cose. La cosa triste oltretutto è che di solito vengono picchiati non i violenti, non quelli che in certo qual modo scatenano la rabbia. Esatto, che la scampano, no? Sì, quindi sembra quasi che ci sia una rabbia repressa, una specie di, francamente, di voglia di menare. No, ma il problema è un po' così, perché poi quelli che vanno a sfasciare tutto sono i professionisti di questo tipo di manifestazione, quindi purtroppo sanno come muoversi e sanno anche come si fa a sfuggire quando è il momento di scappare. Certo. Chi viene preso in mezzo sono sempre quelli che sono lì magari a manifestare pacificamente, e poi quando succede il casino, purtroppo dove si picchia, o no Paola? Ma allora, i professionisti sono dei professionisti, in questo caso dello sfasciamento, sono dei vigliacconi, perché chiaramente sono talmente professionisti che si dileguano al momento opportuno. È chiaro che quello che si è visto è stato grave, ho apprezzato molto i termini estremamente diretti che ha usato Alessandro Pansa, il capo della polizia, perché, perché sono errori gravi che non si devono fare, perché è richiesto molto sangue freddo. Sì, dire un cretino da identificare di un agente di polizia è una parola, è molto chiaro, voglio dire. È molto chiaro, appunto, non si fa, cioè non so come dire, non si fa, appunto. Purtroppo, e lo dico anche rischiando, diciamo così, di sembrare poco simpatica, ma non parliamo di quando vengono pestate le forze di polizia. Di tutto. Quello sembra che nei 1100 euro che prendono al mese rientri come contratto anche questo. Ecco, mi piacerebbe vedere un atteggiamento altrettanto. No, ma è chiaro, ma infatti il rischio poi quando si dice quel cretino lì, come uso il termine che ha usato il capo della polizia, sembra che si voglia identificare tutti coloro che portano la divisa, che è assolutamente sbagliato, assolutamente. No, non è questo il senso. Però purtroppo diventi di parte e non puoi essere di parte. È vero. Ma diventi di parte. Allora, Luca, che dice? È un po' così poi la vicenda. No, voglio dire che oltretutto, che però è importante dire che non si può fare tutta un'arma a un fascio. Non sono tutti così. Sono una minoranza che fa molto male a tutti gli altri, oltretutto. E questo certamente. Allora, io nel ringraziarvi e salutarvi abbiamo in copertina di cui i tuoi occhi possono godere in questa settimana, quindi non c'è Jennifer Connelly, 43 anni, portati benissimo, devo dire. Benissimo, devo dire, altro che bolle, a bolle è più giovane, insomma, è molto più giovane. Cara Paola, questo è il numero di Vanity Fair, la trovate alle 15, tu sei in onda, ma c'è una domanda fondamentale, di che ti occupi? Ma temo che oggi, noi oggi ci occuperemo di Berlusconi, 24 di politica, è chiaro, sicuramente anche di Berlusconi. Di Berlusconi. Sarete lì a Cesano Boscone, lo so. Però c'è una domanda fondamentale di un ascoltatore nel salutarti, ti chiede, ma un uomo, Paola, ce l'ha? Vabbè, ma non devi rispondere, non devi rispondere, vuole sapere. Ma se... per questo non risponderò mai, perché sulla porta della vita privata c'è scritto privato. È privato. Comunque vabbè. Sia tranquillo, stia sereno. Sono una donna, come si deve dire in questi casi, innamorata della vita. Oh, ecco, perfetto. Caro ascoltatore, stai sereno. Grazie a Paola Saluzzi, Lucadini, settimana prossima io non ci sarò, sono in ferie, quindi non vi chiamerò. Ah, ciao. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Avanti, debosciati d'Italia, sono le 7:18 minuti. Come vi appello io affettuosamente? C'è gente che vi scrive arrabbiata. Mi dà del debosciato, io la querelo, la denuncio. Allora, debosciati tutti tranne lei, caro ascoltatore. Anzi, debosciatissimo lei. Va bene. Allora, siamo qui pronti a leggere i giornali. Oggi parleremo di questo tema, della vicenda di cronaca del Pertini di Roma, dove c'è stato questo presunto scambio di embrioni in una fecondazione assistita e ora ci sono due coppie coinvolte, la coppia di genitori con la madre che sta portando avanti la gravidanza di due gemelli, di embrioni non suoi, che dice questi figli sono miei perché li sto crescendo, e dall'altra parte c'è una mamma proprietaria biologica, diciamo così, degli embrioni, che dice se si hanno impiantato gli embrioni a quella donna, quei figli sono miei e quindi quando quella donna li partorirà li vorrei, li voglio, li pretendo. È un tema non solo legale ma anche etico non indifferente. Ne parleremo alle 8:15. Avremo anche l'avvocato della donna che chiede che le vengano di fatto consegnati i figli che vengono partoriti da un'altra donna, perché dice gli embrioni sono miei e quindi sta portando avanti la gravidanza di due gemelli biologicamente miei. Ci sarà anche con noi Assuntina Morresi, e torna Comitato Nazionale di Bioetica, il magistrato e esperto di queste tecniche, di queste tematiche, Amedeo Santosuosso. Insomma, anche il vostro parere di chi sono secondo voi questi figli, di chi li sta portando in grembo oppure di chi di fatto è biologicamente il genitore naturale. Ne parleremo tra un'ora, ora i giornali. È mercoledì 16 aprile e la voce se ne va, sempre di più. Meno male che sono in vacanza la prossima settimana, ve lo dico già adesso, sono in vacanza. Allora, i titoli, il Sole 24 Ore, i nuovi venti di guerra spaventano i mercati, questo è il titolo del Sole, mentre Berlusconi è l'apertura per gli altri quotidiani. Berlusconi può fare ancora politica, così titola il Corriere della Sera. Repubblica, Berlusconi pena di 7 giorni, perché 4 ore a settimana per 10 mesi fa 168 ore, insomma sono 7 giorni di pena. Repubblica, Libero, Berlusconi va rieducato, un paese di matti. Il Fatto Quotidiano, finisce in un centro anziani, pericoloso ma può recuperare, è Berlusconi. Il Messaggero, Berlusconi al servizio anziani. La Stampa, servizi sociali per 4 ore, la pena di Berlusconi. Mentre Il Manifesto titola l'ospite d'onore con la foto del centro anziani. L'Unità, Berlusconi condannato a 4 ore. Mentre Avvenire, Banca Italia più tagli, governo più famiglia. E Il Giornale, la balla degli 80 euro, Renzi fa i trucchi, questo è il titolo del Giornale. Ma io voglio partire, sono tante notizie di cui vorrei parlarvi oggi nello spazio risicato della rassegna stampa, per iniziare da che cosa? Dalla vicenda degli scontri di Roma, le polemiche, la gente che ha messo quel piede o ha calpestato, mettetelo come vedete voi, tanto ci sarà un'indagine, visto che questa gente, che racconta il Corriere della Sera con Fiorenza Sarzanini a pagina 20, è stato identificato, si chiama Massimiliano Daddani, lavora presso la questura di Roma, indagato per lesioni volontarie con l'aggravante dell'abuso di potere. E c'è questa foto, video, in cui mette il piede e calpesta una ragazza. Dice, racconta il Corriere, cercavo ordigni, non l'ho vista. Sabato ero lì in quanto artificiere, ero distratto, cercavo eventuali ordigni inesplosi, non mi sono accorto di avere calpestato una ragazza. Pensavo fosse uno zaino. E la stessa Fiorenza Sarzanini scrive: a risvolti quasi grotteschi e certamente incredibili il racconto del poliziotto in borghese col casco in testa, ripreso durante il corteo organizzato da Roma dal Movimento per il diritto alla casa, mentre sale sul fianco di una giovane stesa per terra. La sua difesa, in una pagina dattiloscritta trasmessa ieri dalla Digos al pubblico ministero Eugenio Albamonte, appare smentita però dai filmati della trasmissione Servizio Pubblico, che hanno documentato 20 minuti di guerriglia tra via Veneto, piazza Barberini e via del Tritone. In queste decine di immagini che circolano già su internet si mostrano anche altri colleghi mentre bloccano e prendono a calci altri manifestanti. Dichiara nella sua memoria difensiva Daddani: mi occupo di ordigni, bombe carta, non mi sono proprio accorto delle persone che erano per terra, non l'ho capito neanche dopo, quando siamo rientrati. Solo guardando la TV che mostrava le immagini ho scoperto cos'era accaduto e soltanto allora ho visto che si trattava di una ragazza e ho notato il giovane che le stava sopra. Questo dunque la memoria difensiva che il Corriere gli giudica un pochino così, un po' inverosimile. Certo, Libero invece continua nella sua polemica, cioè a dire: tutto come al solito, indagato il poliziotto, il reato e lesioni volontarie, e il sindacato SAP protesta contro di noi, i processi volano, mentre per i teppisti nulla. C'è un'intervista però al vice ministro all'interno Filippo Bubbico, intervistato da Repubblica da Alberto Custodero, vede proprio le immagini in diretta, anche le immagini degli altri pestaggi in diretta con il giornalista di Repubblica, e dice: non posso che essere indignato, voglio esprimere il massimo dell'indignazione per scene di questo genere. A un certo punto, scrive Repubblica, gli scappa anche un ma porca miseria, non è possibile, non è possibile, la polizia deve agire diversamente, non può mai essere messa in discussione l'integrità fisica delle persone, la tutela dell'ordine pubblico comporta anche la capacità di dominio e il controllo delle situazioni più complesse e complicate. Come intendete comportarvi nei confronti dei responsabili di questa aggressione, chiede Repubblica, esattamente come nel caso del poliziotto che ha calpestato la manifestante. Prima va accertata l'autenticità del filmato, poi dobbiamo individuare i poliziotti. Alla fine delle indagini nostre, della magistratura, dovremo essere determinati e rigorosi. Rispunta dunque la proposta, scrive Custodero, di mettere e dotare i poliziotti di cartellino di riconoscimento. Sì, lo so, se ne parla spesso, risponde Bubbico. Ci sono tante ragioni per sostenerne l'utilità, ma altrettante per l'esatto contrario. Questo argomento va comunque affrontato coi sindacati di polizia. E ribadisce ancora Bubbico: saremo severi con i responsabili. Questo staremo a vedere. Intanto, c'è un'altra polemica che continua sui giornali, cambiando argomento, è la vicenda delle nomine, Eni, Enel, Finmeccanica, Poste. Le polemiche sono queste. Intanto il Quotidiano Nazionale, Il Giorno, fa l'elenco di tutti i renziani. Renzi promuove il cerchio magico, fedelissimi toscani nei posti chiave. Sono tanti, dall'avvocato della fondazione Big Bang, vale a dire l'avvocato Alberto Bianchi, nuovo consigliere d'amministrazione dell'Enel, oppure nella classifica di renzitudine il posto d'onore Fabrizio Landi, imprenditore connatali di Siena, fino all'anno scorso amministratore delegato di Esaote, oggi nel CDA di Banca CR Firenze, lo ha indicato Renzi come consigliere di Finmeccanica, oppure Elisabetta Fabri, consigliere di Poste Italiane, a far da tramite tra Renzi e Diva Moriani, invece nuova consigliere di Eni, e Vincenzo Manes, presidente di Intech e vertice di KMI, colosso del rame legato al gruppo dal rapporto pluriennale. L'ex sindaco l'ha disegnato come presidente dell'aeroporto di Firenze. Un posto da sindaco revisore in Eni è andato a Marco Seracini, commercialista di fiducia di Renzi e fondatore di Noi Link. Insomma, completa il giglio magico un genio della chimica italiana, Katia Bastioli, Folignate di nascita. A collegare Renzi alla Bastioli potrebbe aver pensato Oscar Farinetti, patron di Italy, che non ha mai nascosto la sua stima per la manager verde che ha il suo quartier generale a Novara. Cioè, racconta il quotidiano nazionale che dall'avvocato della fondazione Big Bang al commercialista di fiducia, in questo articolo di Pino Di Blasio, si raccontano il giglio magico, dal cerchio magico al giglio magico, tutte le nomine in quota a Renzi. Tra l'altro racconta, sempre a proposito di nomine, Sergio Rizzo parla del manuale Cencelli, cioè come i partiti politici hanno deciso le nomine, come ci siano stati a scambi di poltrone. Addirittura c'è stato un caso incredibile, secondo Sergio Rizzo, prima pagina del Corriere. Il titolo è "Scambi di poltrone nella lunga notte dei lottizzati". La spiegazione ufficiale dello scambio di persone è quella di un banale errore materiale. Salvatore Mancuso sarebbe scivolato nella lista sbagliata, quella dell'ENI, al posto di un altro protetto di Angelino Alfano, Andrea Gemma. Difficile da credere, infatti non è andata così. Raccontano invece che all'idea di trovarsi in un consiglio di amministrazione con presidente Emma Marcegaglia, Mancuso abbia piantato una grana notturna colossale, finendo per venire accontentato. Lui andrà all'Enel, sembra addirittura con l'incarico di vicepresidente, e Gemma all'ENI. Cioè, secondo questa ricostruzione di Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, doveva essere il contrario. Siccome Mancuso non spiega perché i dettagli, non voleva stare in un consiglio di amministrazione con il presidente Emma Marcegaglia, allora si è stato fatto uno scambio, invece dell'Enel vai all'ENI e all'ENI all'Enel, viceversa. Questo Sergio Rizzo racconta è un emblema di come, insomma, queste poltrone a volte vengono utilizzate per piazzare persone, soprattutto da parte dei politici. A proposito, tra l'altro, dell'ENI, Emma Marcegaglia si difende in un'intervista a Repubblica, intervistata da Roberto Mania, sulle accuse di presunto conflitto di interessi. "Io, imparziale, affari con ENI, ma solo in passato", risponde da Londra, racconta Repubblica, pagina 11. "Non mi dimetterò dall'azienda familiare, come ho detto anche quando sono stata contattata per la presidenza dell'ENI. Il mio gruppo non ha alcun rapporto d'affari con l'ENI, come hanno verificato prima le società di cacciatori di teste e poi il comitato di garanzia presso il Ministero dell'Economia. Non siamo né fornitori né clienti dell'ENI. Da 8 anni, forse più, abbiamo un contratto con Edison. Se vuole, mando tutte le bollette. Poi non confondiamo un'azienda che produce acciaio con un impianto siderurgico. Nel passato sì, abbiamo avuto rapporti con ENI". Così Emma Marcegaglia si difende, dice: "Per noi nessun conflitto di interessi". Ma comunque anche Repubblica racconta: "Nella scelta dei consigli entra il manuale Cencelli, cioè quella spartizione in cui anche i partiti politici hanno messo del loro". Secondo il Messaggero c'è anche un caso per Luisa Todini, che, indicata come presidente delle Poste, è attualmente anche nel consiglio di amministrazione della RAI. Racconta Marco Castoro a pagina 8 che il consiglio di amministrazione della RAI scade tra un anno e per legge non sono incompatibili le due cariche. I due incarichi non sono formalmente incompatibili. A tal proposito c'è però un vuoto legislativo, in quanto la legge anticorruzione non contempla il caso riguardante due società dello Stato non quotate. In molti si aspettano ora che lasci spontaneamente il consiglio di amministrazione della RAI, ma certo è un caso che andrà affrontato. Vabbè, la questione delle nomine, insomma, ha creato e crea ancora oggi sui giornali polemiche. Ma noi ripartiamo dopo la pubblicità da che cosa? Berlusconi ai servizi sociali. La politica ruota tutto attorno a questo oggi sui giornali. Per me, la rassegna stampa di Alessandro Milan è una cagata pazzesca! Ma sei un genio, caro ascoltatore, sei un genio. Ti porterei qui ospite per una settimana come editorialista della mia rassegna stampa. 96 minuti di applausi, erano 96 più o meno. all'ascoltatore, intendo. Allora, Silvio Berlusconi, concessi i servizi sociali, questo è il titolo di tutti i giornali, andrà in un centro anziani 4 ore a settimana. A Cesano Boscone, la Fondazione Sacra Famiglia, Cesano Boscone in provincia di Milano, 4 ore a settimana lì, potrà andare a Roma da martedì a giovedì, insomma, come raccontano i giornali, la agibilità politica, questo concetto per fare anche comizi o comunque interventi anche in televisione, in campagna elettorale, è garantita. Ovviamente qui ci sono i racconti ovunque dell'assedio vero e proprio al centro, dove secondo il secolo XIX esultano, lo faremo giocare a tombola. Invece sulla stampa Michele Brambilla racconta la visita a questo istituto, dove c'è lo stupore e anche il terrore, sarà un vero caos, ne avremmo fatto a meno, immaginate l'assedio dei giornalisti, eccetera. Ci sono in retroscena invece un Silvio Berlusconi che si trattiene davvero a stento. Secondo il Fatto Quotidiano, pagina 4, con Fabrizio D'Esposito, dice: mi umiliano, io sono innocente. È un fiume in piena, perché all'interno del suo, dei suoi consiglieri dice: sono innocente, mi umiliano, mi mandano a rieducare in un centro anziani. Di cosa dovrei rieducarmi io, che ho ricevuto la migliore educazione possibile da mia madre? Secondo il Messaggero invece definisce già le due donne nuove entrate nella sua vita, cioè il giudice di sorveglianza Beatrice Crosti e Severina Panarello, la dottoressa e rieducatrice che farà colloqui per capire il percorso di redenzione di Silvio Berlusconi, le definisce le mie due carceriere. E ancora in un retroscena di Repubblica pare dica ai suoi: insomma, questo ormai sarà il mio nuovo referendum il 25 maggio, o con me o contro di me, o dalla parte di Berlusconi o contro Berlusconi, le premesse non sono delle migliori, dice Repubblica. E poi ancora: ma cosa dovrei essere rieducato io? Potrei insegnare agli educatori che mi incontreranno come si vive e come si sta al mondo. D'altra parte è un Berlusconi che deve mantenere, come racconta Luigi Ferrarella, pagina 3 del Corriere della Sera, un decoro, soprattutto nelle dichiarazioni, perché il rischio è che con nuovi attacchi ai magistrati questo affidamento ai servizi sociali possa essere revocato e trasformato in arresti domiciliari. Racconta tra l'altro Luigi Ferrarella che c'è stato un ultimo tentativo di proporre da parte di Berlusconi, questo nella relazione esaminata dai giudici, di fare ippoterapia per anziani o disabili a casa sua ad Arcore. E scrive Ferrarella: va bene tutto, ma l'ippoterapia a casa sua no, è un po' troppo come pretesa. Questa proposta di Berlusconi di svolgere un'attività di volontariato all'interno del centro di ippoterapia di sua proprietà finirebbe per svilire di fatto, se non vanificare, il significato dell'affidamento in prova ai servizi sociali che il Tribunale di Sorveglianza ha concesso all'ex premier, indicando questa assistenza agli anziani disabili. E tra l'altro, particolari, Cesano Boscone, anche il paese dove sta facendo un percorso riabilitativo, Massimo Tartaglia, ve lo ricordate, quello che scagliò proprio in faccia a Silvio Berlusconi la statua del Duomo, corsi e ricorsi storici. E poi c'è Massimo D'Alema, con la sua dichiarazione che ha suscitato polemiche: le persone meno ricche e meno potenti sarebbero finite in carcere. Così parlò Massimo D'Alema ieri a Porta a Porta. Anche in un lungo editoriale del Foglio in prima pagina si racconta di questo Silvio Berlusconi che, convinto soprattutto dall'avvocato cassazionista Franco Coppi, manterrà un profilo basso attenendosi a quel decoro richiamato dai magistrati nell'affidarlo ai servizi sociali, perché altrimenti rischia che la pena venga convertita. E allora, di fronte a un Niccolò Ghedini che dice: non puoi dire quello che pensi, non posso, vuol dire che alluderò in questa campagna elettorale. Poi, fortificato dal messaggio della pitonessa Santanchè, che dice di lui: Silvio ha 8 palle ed acciaio. Allora Silvio Berlusconi dice: mi mostrerò accorto, addirittura sottile, sottile, starò zitto se necessario, non certo per mancanza di coraggio o resa verso l'intimidazione, ma per il dovere sommo e direi quasi disperato alla prudenza. Insomma, Berlusconi è pronto ad affrontare questo momento che poi Repubblica calcola in 7 giorni, se si calcolano 24 ore al giorno di pena, sono 168 ore, 4 ore a settimana per 10 mesi sono 168 ore, quindi 7 giorni di pena effettiva. Questo infatti è il titolo di Repubblica, Berlusconi pena di 7 giorni. Vabbè, la politica ruota tutto attorno a questo, come questo impatterà sul percorso delle riforme. I giornali raccontano che non impatterà, anzi Repubblica con Goffredo De Marchis dice sarà pure una coincidenza, ma l'effetto Renzi-Berlusconi, il patto sulle riforme ha subito un'accelerazione, questo per Repubblica. In realtà per il Corriere della Sera Renzi ora va in giro a dire entro il 25 maggio il titolo quinto della Costituzione, sì, però senza patemi, come dire. Forse possiamo anche fare un po' più tranquillamente. Mentre ieri Beppe Grillo ha fatto un vero e proprio show al Senato, si è presentato, ha fatto uno di quei monologhi attaccando ancora anche i giornalisti, siete morti, morti viventi, insomma le solite cose, ha anche attaccato nuovamente sulle critiche alla comunità ebraica sul caso Shoah, ha rincarato la dose, come titolo al Corriere della Sera, lo show di Grillo al Senato sul caso Shoah rincara, ha definito il portavoce della comunità ebraica Gattegna dicendo ignorante, dovrebbero cambiarlo, la mia non era una battuta, non volevo in qualche modo denigrare la Shoah, assolutamente. E poi definisce anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Currò, che lo ha criticato, mai sentito, chi è? E va bene, questo Beppe Grillo ieri al Senato. Ma visto che ha parlato di morti viventi, io voglio salutare Mauro Meazza. Mauro, buongiorno, eccoci. Buongiorno, me l'aspettavo. Questa era più prevedibile. Sto perdendo la verve, è vero. Allora, senti, noi qui dal pianeta degli zombie, sì, quindi dei morti viventi, vorremmo segnalare delle cose per quello che ci riesce, insomma, nella nostra debolezza. Vorrei innanzitutto dirti che insieme a Sole 24 Ore stamattina trovi la seconda uscita della guida al 7:30, che vabbè, credo che anche per parte dei morti viventi le imposte debbano essere versate, anche da morti, quindi, credo, bisogna pagare. E quindi in qualche modo un'occhiatina bisognerà dargliela. No, anche perché soprattutto è concentrata sugli sconti che ci sono, gli sconti fiscali, bisogna un po' saperli cogliere. Poi vorrei segnalare che, come riferiamo sul Sole 24 Ore, c'è la possibilità che il bonus dell'IRPEF, quello famoso, quello di Renzi, quello che deve arrivare in settimana con il decreto legge, bene, venga pagato anche a colf e badanti, anticiperà il datore o diciamo colui che dà lavoro, ecco, alla colf. Questa alla è una risposta, perché ieri c'erano appunto dei dubbi su come. C'erano dei dubbi, adesso l'orientamento sembra questo, avremo la certezza solo quando vedremo il provvedimento nei prossimi giorni. Ti vorrei poi dire una cosa un po' criptica, però tu sappi che è importante, come sempre. Sì, criptico. Anche la nota integrativa potrà essere trasmessa al registro imprese in formato XBRL. Ah, beh. Ecco. Beh, oggi a proposito di criptismo, non so qui se siamo, si dice siamo così, veramente a radio fisco, siamo nel cifrato puro. Ecco. Ti assicuro però che è importante. Ma no, ma io vorrei faccio il solito atto di fede. Precisare che ho detto potrà, perché è una facoltà, non è un obbligo. Però si potrà trasmettere la nota integrativa anche in XBRL. Bene, bene. Sappilo, sapevatelo. Comunque tutti i dettagli naturalmente su norme e tributi, nelle pagine di norme e tributi e dove se no. Poi ti voglio dire che tu guadagni più o meno di 285.000 euro l'anno, di più mi pare. Molto, no? Di più. Molto di più. Infatti si vede, c'è anche una tua foto con una faccia sorridente oggi nelle nostre pagine. Infatti. E si capisce con quello stipendio. Bene, allora sei sopra la media dei calciatori di Serie A e B. Oh, lo riferiamo oggi. Sì, loro sono già sopra la media spending review del nostro Premier, che è fissata dal Premier, e tu comunque con i tuoi non so quanti migliaia di euro al mese. Molto di più di 285.000, adesso non molto di più di 285.000, calcolati all'anno. Chiaro, vabbè. Questo vabbè. Insomma, solo per dire alcune delle cose importanti oggi sul Sole 24 Ore. E allora, noi parliamo invece dopo il traffico del caso degli embrioni, ma non è che volevo rubarti il lancio, No, ma sai che è il nostro saluto oramai, quindi infatti, salutiamoci infatti cordialmente con traffico. Oh, Milan! Sì, il numero uno, ciao! Ciao anche a te, carissimo. E allora, il caso degli embrioni che sono stati scambiati evidentemente al Pertini di Roma è un caso che non solo non si placa, noi ne parleremo alle 8:15. Allora, intanto il ministro alla salute Beatrice Lorenzin, intervistata oggi dal Messaggero, dice: quei due gemelli li sentirei miei, perché proprio questo è il tema che vogliamo porre come domanda. Secondo voi, a questo punto, di chi sono questi figli? Della donna che li sta portando in grembo, anche se non c'è materiale genetico, come è stato scoperto nell'esame della villocentesi, né del padre né della madre, sono embrioni fecondati ma non sono della donna, per l'appunto, e non sono stati fecondati col seme del suo uomo, ma evidentemente sono stati impiantati, erano di un'altra coppia. Sono però miei figli, dice questa donna, perché li sto portando in grembo, mentre la donna che presumibilmente la madre biologica insieme al padre biologico dice: beh no, quelli sono i miei, quindi sta portando la gravidanza avanti un'altra donna, ma poi quando partorirà li voglio indietro. Allora, se questo dal punto di vista legale, lo chiariremo, è un po' impossibile, c'è anche il tema etico, cioè la domanda di chi sono questi figli, di chi li sta crescendo, o di chi è il padre o la madre biologica. Beatrice Lorenzin, ministra della salute, risponde anche a questa domanda, dice: mi metto al posto della donna che aspetta i gemelli, dichiara al Messaggero, intervistata da Carla Massi, e di quella che invece non è riuscita nella gravidanza. Se avessi in grembo i bambini, dice il ministro Lorenzin, li sentirei miei. Se vivessi il fallimento della tecnica, avvertirei il dramma in modo lacerante, una vittima. Penserei che in altre condizioni potrei essere una donna infelice attesa. Non do giudizi, dico a tutte queste persone coinvolte che sento e capisco il loro dolore. Posso anche però fermare la psicosi di molti italiani e dire che questo è un caso unico, il primo del genere e sarà anche l'ultimo. Metteremo ordine nei centri del Lazio. In Italia la rete dei centri per la fecondazione assistita funziona e funziona bene. Così rassicura il ministro Lorenzin, però racconta il Corriere della Sera con Francesco Di Frischi a pagina 18 che lo scambio di embrioni, ora le coppie coinvolte, da 4 pare siano salite a 6. Sono infatti 6 le coppie che si presentarono quel famoso 4 dicembre al Sandro Pertini di Roma a fare l'inseminazione artificiale, e quindi il giallo si infittisce, perché ora bisogna capire l'embrione impiantato erroneamente a quella coppia, a quale coppia invece apparteneva. Il quotidiano Avvenire a pagina 9 per esempio racconta che in America, negli Stati Uniti, Caroline e Sean Savage sono una coppia che hanno vissuto più o meno la stessa vicenda, e loro hanno deciso, una volta partorito il figlio, di restituirlo, di darlo alla madre biologica. Repubblica fa proprio un focus a pagina 30 e 31 ponendo la domanda che porremo anche noi alle 8:15. Di chi sono questi figli? Secondo voi, di chi li porta in grembo, oppure di chi è il padre e la madre biologica? Certo, la madre, che potrebbe essere la madre biologica, ancora oggi anche sulla stampa, e avremo il suo avvocato Pietro Nicotera ospite alle 8:15, dice: se sono figli miei li rivoglio indietro una volta che verranno partoriti. Il caso davvero è controverso. Per la cronaca ricordo che sul Fatto Quotidiano c'è questo articolo, un articolo di Carlo Tecce a pagina 6, il titolo è questo: il governo toglie alla RAI 170 milioni dal canone di abbonamento. Racconta Carlo Tecce che è una lettera spedita da Palazzo Chigi, quindi dal governo, ai vertici di Viale Mazzini, il governo chiede ai vertici della RAI di contribuire al taglio di spesa pubblica con 170 milioni di euro che verranno succhiati dal canone di abbonamento del 2014. È una vicenda un po' controversa, un meccanismo semplice: il tesoro trattiene circa il 10% di oltre 1,7 miliardi di euro annui, la tassa che gli italiani pagano, anche se in tanti la evadono. Occorrono risorse per mantenere le promesse di Renzi, e allora ecco che il ministro dell'economia Padoan ha pensato di recuperare 170 milioni di euro così dal canone di abbonamento 2014. Questo però crea un problema sui bilanci RAI, alla RAI sono molto molto preoccupati. Mentre un caso di cronaca che è esploso sui giornali riguarda il segretario del sindacato UGL, colui che ha sostituito Renata Polverini, Giovanni Centrella, ex operaio metalmeccanico, segretario nazionale del 2010, confermato dal 2012, racconta ai giornali, è indagato a Roma l'accusa di avere sottratto al sindacato UGL 500.000 euro spese in borse, gioielli e spese personali, indagati lui e la moglie. Secondo il Messaggero, UGL sono 593.000 euro sui conti di Centrella. Lui dice pronto a lasciare, anche se posso spiegare tutto, non c'è nulla che ho intascato. Anche La Stampa dedica con Roberto Giovannini una pagina a questo caso: borse e gioielli coi soldi dell'UGL, indagati il segretario e la moglie. Va bene, siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, a mio insindacabile giudizio. Ricordate sempre, oggi vince ancora il giornale che è in testa questa classifica. Attenzione Sallusti, che a fine anno consegniamo la coppa, eh? Consegniamo la coppa della carta costa, il giornale in testa oggi, Oscar Grazioli a pagina 19, un'intera pagina sulla carica dei super topi, cresciuti a forza di panini. Il dramma del giornale, avete notato? I topi sono sempre più grandi nel mondo, e questo perché si cibano dei nostri cibi che scartiamo e anche del junk food. I gatti sono in fuga. Ora si addestrano i cani per prendere i super topi. Ma dai! Ma dai! Ma dai! Il giornale radio! Mattino. Sono le 8:18 in punto, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. E comunque la pensiate, comunque andrà a finire questa storia, la storia di cui vogliamo parlare oggi, certamente possiamo dire che è stato fatto un pasticcio inenarrabile. Questa storia dello scambio di embrioni avvenuta al Pertini di Roma lo scorso 4 dicembre è, parole del ministro alla salute Lorenzin oggi in un'intervista al Messaggero, una fonte di dolore terribile per tutte le persone coinvolte. Dice il ministro: capisco e sento il dolore di queste persone. I fatti, per quanto ne sappiamo, quanto ha riportato i giornali, la cronaca in questi giorni, sei coppie, non quattro, ma pare sei, scrive oggi il Corriere, che si sono presentate lo scorso 4 dicembre all'ospedale Pertini di Roma per fare la fecondazione assistita. Sei coppie che cercavano un figlio. A una coppia va bene, gli embrioni fecondati e impiantati portano a una gravidanza di due gemelli. Solo che quando la donna va a fare un esame, la villocentesi, uno degli esami che a volte si fa durante la gravidanza, si scopre che non esiste alcuna traccia genetica né del padre né della madre in quegli embrioni, in quei feti, e quindi non sono figli loro biologicamente parlando. Da qui nasce il dubbio, il sospetto, che poi si concretizza nella certezza: c'è stato uno scambio evidentemente di embrioni. Ora da qui nascono le polemiche. La domanda che voglio porre io, se la pongono i giornali, oggi Repubblica lo fa in un focus di due pagine centrali nel giornale, è: secondo voi a questo punto di chi sono questi figli? Sono i figli di quella madre che li sta portando in grembo e del padre che sta vicino a lei durante la gravidanza, o sono deve prevalere, come dire, la biologia, il DNA, e quindi i figli sono delle persone, della donna, dell'uomo, che biologicamente sono i genitori, il cui embrione è stato impiantato in una persona diversa. Questo è un tema al quale risponde la legge, tra poco lo vedremo, ma è anche un tema, se volete, etico, bioetico, al quale tutti noi possiamo dare una risposta. Di chi sentite che siano figli? Beh, il ministro Lorenzini in questa intervista al Messaggero oggi dice: se li portassi in grembo questi figli li sentirei miei. Miei, anche se non sono evidentemente biologicamente miei. Io voglio salutare, ne parliamo con Assuntina Morresi che torna con noi. Buongiorno, fa parte del Comitato Nazionale di Bioetica. Buongiorno, professoressa. Buongiorno. Scrive anche su Avvenire, è anche consulente del Ministro della Salute Lorenzini. Voglio salutare invece l'avvocato Pietro Nicotera. Buongiorno, Nicotera, buongiorno. Mi perdoni. Avvocato Nicotera, lei è l'avvocato di una delle donne che si è sottoposta quel giorno al Pertini. Sì. E di una delle donne che dice: quegli embrioni potrebbero essere i miei. Lei ci conferma, avvocato Nicotera, che questa donna, nel caso fosse confermato che quell'embrione è il suo, vorrebbe indietro i figli una volta partoriti? Guardi, il mistero qui ogni ora che passa si infittisce sempre di più, perché come giustamente lei ha fatto rilevare questa mattina il Corriere della Sera evidenzia che le coppie che fino a ieri si riteneva fossero quattro, che il 4 dicembre si sono sottoposte al transfer, a questa procedura di procreazione assistita, in parole povere, sì. Adesso siano diventate sei. La cosa che a noi e che ci ha spinto a presentare un esposto denuncia ieri mattina è che a tutt'oggi, questa mattina ore 8:22, nessuno si è degnato di farci una telefonata, né a me né ai miei assistiti, la coppia, perché qui non si parla solo di mamme, ci sono anche i papà. I prelievi li hanno effettuati anche sui papà, non solo sulle mamme. E ho saputo, leggendo il Corriere della Sera questa mattina, che addirittura la mia assistita non risulterebbe nell'elenco delle persone che il 4 dicembre abbiano effettuato il transfer. È ancora più grave. Ma è così, invece no, lei conferma che la sua assistita... Scusi, abbiamo depositato una denuncia allegando la documentazione medica che la signora il 2 ha effettuato i prelievi e il 4 si è sottoposto al transfer con i relativi pagamenti, quindi non c'è ombra di dubbio. Però, avvocato, questo mi ha lasciato molto perplesso, significa che c'è una gran confusione. No, su questo non c'è dubbio, già il fatto che si sia potuta produrre una situazione del genere vuol dire che una confusione c'è stata. Però mi confermi questo, perché io alcune interviste le ho lette ieri al Messaggero, oggi credo sulla Stampa, cioè la sua assistita ribadisce questa linea, cioè se fosse confermato che quell'embrione è mio, io vorrei indietro i figli, capisce che è una posizione? Lei conferma questo? Sì, la ribadisco, me l'hanno ribadito entrambi i genitori ieri sera con forza, perché loro non sono in grado, ritengono, di poter andare avanti, insomma, pensando che un'altra donna ha partorito degli embrioni loro. Che io posso comprendere, il dramma e lo stato d'ansia in cui si trovi la signora che sta portando avanti questa gravidanza, però si può anche comprendere in che stato possono essere due genitori naturali, biologici, che sanno che nel corpo di un'altra donna si sta creando una vita che appartiene anche a loro. Il dramma sia di tutti, questo non c'è dubbio. Però vorrei da lei un commento su ciò che ha detto il ministro Lorenzini. Non so se l'ha già letto oggi sul Messaggero. Dice: se li portassi in grembo li sentirei miei, proprio per il fatto di portarli in grembo. Insomma, di quelle... questo è comprensibile, comprensibilissimo da parte di una donna, di una mamma che possa dire e pensare questo, è più che legittimo. Certo, questo è un caso talmente particolare che comporta una serie di implicazioni dal punto di vista morale, filosofico, che potremmo discuterne per giornate intere, no? Una chiarezza dovrà comunque essere fatta, perché se verrà confermato questo, noi stiamo parlando adesso per ipotesi, chiaro. Se verrà confermato che vi è stato questo scambio di embrioni, che a questo punto noi speriamo che non sia così, perché i miei assistiti sono arrivati a dire: speriamo che non sia così, perché sennò saremo costretti per i prossimi anni a portarci avanti questo peso magari anche con un impegno legale non indifferente. No, no? Ma è chiaro, per l'idea di sapere che i propri figli biologici siano stati, diciamo, partoriti da un'altra donna e siano figli di un'altra coppia, ecco. Certo, capisco che questo sia un peso insopportabile, potrebbe essere considerato così per tutta la vita. Devo dire che ci arrivano già messaggi, ovviamente io non ho dato il numero di telefono, ma 800 24 00 24, se avete un parere su questo caso certamente molto controverso. Professoressa Morresi, intanto partirei, le faccio questa domanda secca, perché mi sembra giusto, da oltre che da professoressa, da madre. Lei è d'accordo quando il ministro dice li sentirei i miei? Cioè, lei, dal punto di vista, dipendesse da lei la scelta, perché ci sono adesso a questo punto due coppie che reclamano i figli. Dovesse capitare a lei come scelta, cosa farebbe una volta che verranno partoriti? Ma guardi, da donna non posso e da madre non posso che confermare quello che ha detto il ministro. Chiaramente una donna porta dei figli in grembo, li sente suoi, questo è inevitabile. È chiaro che però neppure Re Salomone riuscirebbe a districare questo nodo, perché nel momento in cui noi andiamo a dividere ciò che in natura non è diviso, e questo è stato una fatalità, chiaramente un evento imprevedibile, nel momento in cui noi andiamo a dividere un contributo genetico da un contributo di gravidanza gestazionale, il nodo diventa, cioè la risoluzione vera non c'è. Questo purtroppo è la verità. Questo certamente. Una soluzione corretta non c'è. No, questo no, è una soluzione che metta d'accordo tutti, e questo è chiaro, non ci sarà. Purtroppo però, non c'è. Professoressa, io leggo sempre con attenzione Avvenire, leggo sempre anche i suoi editoriali. Ieri ha fatto un titolo di prima pagina, Avvenire, che francamente a me non è piaciuto molto, glielo devo dire. Cioè, l'eterologa. Ecco, adesso sì, l'Italia sì, capisce cos'è l'eterologa. Mi dà quel senso, come dire, un po', lo dico brutalmente, un po' cattolico del concetto di dire: vedete, siete stati puniti perché siete voluti ricorrere a un metodo contro natura. L'ho letto un po' così, un po' mi ha preso male. Guardi, sicuramente l'intenzione non è punitiva o appunto di questo tipo, negativa. Sicuramente questo evento, che per casualità è avvenuto qualche giorno dopo la sentenza, mette in evidenza tutte le contraddizioni dell'eteologa, anche se di per sé non è legato assolutamente alla sentenza, però mette in evidenza tutte le contraddizioni, perché appunto divide ciò che non è diviso in natura, cioè divide un contributo gestazionale, divide la gravidanza dal fatto che una donna dà anche il proprio contributo genetico. E questo qui, questa scissione, fa sì che esistano due madri naturali. Questo è quello che si determina. E questo è il fatto che, vede, finché uno dice la madre, il figlio è di chi lo vuole, ma quando lo vogliono in due? Perché le madri sono diverse e sono tutte e due naturali. Questa è la grande domanda che tutti si pongono è proprio questa, cioè conta di più poi il legame affettivo, quel legame particolare che si instaura nel momento, dal primo giorno della gravidanza fino a quando uno cresce un figlio in una coppia, o il legame biologico? Se lei lo chiede alle signore, tutte e due potranno dire con grande convinzione e con legittimità che contano tutte e due, perché vanno, di solito sono unite, naturalmente sono unite, la donna è fatta, noi siamo fatte perché siano uniti, e questa è la grande contraddizione che c'è nell'eterologa, e questo era anche il senso del titolo di Avvenire. E questo fatto drammatico, sicuramente doloroso, lo fa come esplodere. Avvocato Nicotera, mi faccia capire, tecnicamente dovesse essere accertato, si parla sempre per ipotesi, che fosse i vostri assistiti, padri e madri biologici di questi due gemelli, e tecnicamente cosa potreste fare? Cioè una richiesta di riconoscimento e affido nel momento in cui nascono? Ma sicuramente, guardi, stiamo approfondendo questo aspetto. Certo, dobbiamo attendere gli esiti di tutti i test, però stiamo approfondendo questo aspetto strettamente giuridico, che precedenti non ce ne sono, quindi qualunque decisione verrà adottata dovrà comunque essere un precedente giurisprudenziale. Sicuramente sul mandato dei miei assistiti, ove dovesse essere riconosciuto che gli embrioni appartengono a questa coppia e dovesse essere portata a termine la gravidanza, avanzeremo una richiesta di affidamento al Tribunale per i Minori competente, che è quello di Roma. E poi però l'affidamento prevede che la persona che li mette al mondo li disconosce, perché altrimenti certamente sì, certamente è più che disconoscere, dovrebbe essere il Tribunale dei Minori ad intervenire con eventuale, come avviene per ogni normale caso, con un'eventuale sospensione delle potestà genitoriali. Implica tutto un meccanismo chiaramente molto, molto particolare, no? Certo. Quindi sospensione della potestà genitoriale e nuovo affido a chi verrà ritenuto poi essere l'effettivo genitore. Certo, sarà un caso da seguire attentamente. No, capite che sarà un caso che comunque, voglio dire, fare la volontà e fare il bene dei vostri clienti vuol dire automaticamente, diciamo, ricercare necessariamente il male dei clienti della controparte, ma questo evidentemente è un caso appunto che non è risolvibile con la soddisfazione di tutti. Questo è abbastanza ovvio. Però dopo la pubblicità sono tantissimi i messaggi che arrivano, c'è cioè chi ci dice un figlio per uno, insomma non è che stiamo parlando di pacchi postali, insomma il tema è un po' più profondo e difficile, irrisolvibile per certi versi. Dopo la pubblicità, con Assuntina Morresi e Pietro Nicotera, avvocato di una delle coppie che si è sottoposta appunto a questa procedura e dice potrebbero essere i nostri gli embrioni, ci raggiungerà anche il giurista Amedeo Santosuosso per cercare di capire se dal punto di vista della legge davvero è possibile che questi gemelli, quando verranno partoriti, possano essere tolti alla madre, se volete, che li ha partoriti, e restituiti ai genitori biologici. 24 mattino. Eccoci qui alle 8:36 minuti. Allora, il caso degli embrioni scambiati all'ospedale Pertini di Roma. Siamo insieme all'avvocato Pietro Nicotera che assiste la coppia che potrebbe essere potrebbero essere i genitori biologici, padre e madre, di questi embrioni impiantati in un'altra donna. Siamo insieme ad Assuntina Morresi. Voglio salutare anche il professor Amedeo Santosuosso, magistrato, insegna diritto, scienze e nuove tecnologie a Pavia. Buongiorno professor Santosuosso. Buongiorno. Senta, ci aiuti a capire dai lumi della legge perché l'avvocato Nicotera ci dice, se dovesse essere accertato che sono i miei assistiti padre e madre biologici, io appena nati depositerò una richiesta di riconoscimento e affido. È possibile questo? Ma io posso capire le preoccupazioni, il disorientamento, non sarei così tranchant. Almeno in questo momento. Bisogna partire dal fatto che per la legge, che naturalmente la legge è stata concepita in un momento in cui non esisteva la pratica della fecondazione extracorporea e quindi era sicuro il fatto che il bambino che nascesse da una donna fosse di quella donna anche dal punto di vista biologico e non solo dal punto di vista gestazionale. Però sta di fatto che la legge ancora oggi è quella. Sì. Cioè il rapporto di filiazione si stabilisce con la donna che ha partorito. Questo significa nella fase precedente due cose. Uno, che la prima lesione della autodeterminazione della persona e al limite anche per certi profili della sua integrità psichica e anche fisica è della donna stessa. Quindi la donna che partorisce è la madre. È la madre. E questa donna nel corso della gestazione, non è una cosa che io auspico, però da un punto di vista giuridico bisogna saperlo, questa donna potrebbe anche maturare la convinzione, la determinazione proprio per la gravissima situazione in cui si viene a trovare anche di interrompere la gravidanza. Sì. E nessuno potrebbe dirle nulla. Certo. E questo però pare che questa è una scelta personale, non è stata fatta. A me non interessa in concreto, lei mi sta facendo una domanda cosa dice la legge, io provo a dirle quelle due cose che la legge dice. In secondo luogo è chiaro che qui, anche se non risolve nessun problema, però vi è una responsabilità enorme del centro che ha praticato questa fecondazione, e questa sarà una responsabilità patrimoniale, non patrimoniale, di rilevantissima entità. Poi che cosa succederà? Al momento della nascita, ancora una volta, la prima protagonista è la donna stessa, che potrebbe decidere anche di non riconoscere, e in quel caso si potrebbe aprire una prospettiva di una possibile adozione, oppure di riconoscere, e a quel punto io non precipiterei dal punto di vista giuridico, perché siccome sono cose che hanno implicazioni psicologiche fortissime, sì, come è evidente a qualsiasi persona di buon senso, aspetterei di capire come si assesta psicologicamente. Però diciamo, dal punto di vista della legge, professor Santosuosso, quindi abbiamo accertato che la madre è certamente colei che porta avanti la gravidanza e partorisce, per il padre vale lo stesso discorso? Sa perché le faccio questa domanda? Perché per gli uomini è possibile, per tutti, anche fare un esame del DNA, se uno ha dei dubbi, allora, e disconoscere un eventuale figlio laddove si accertasse che non è mio figlio. Ecco, per perfetto, questa è una possibilità che la legge riconosce, però attenzione, la giurisprudenza italiana, anche della Corte di Cassazione, prima della legge 40, aveva raggiunto un risultato molto importante: il fatto che un uomo desse il consenso alla fecondazione assistita, che coinvolgeva naturalmente in primo luogo la donna della coppia, era un qualcosa che non poteva essere revocato. Ora, è chiaro che la discendenza biologica è in primo luogo di chi porta avanti la gravidanza, e questo non riguarda l'uomo, però certo, anche qui un'azione di immediato disconoscimento, come se fosse stato il frutto di una relazione extraconiugale, mi sembra una cosa di dubbissima legittimità etica e forse anche di giuridica. Se venisse accertato che c'è un padre, in questo caso potrebbe essere l'assistito dell'avvocato nipote. Le posso dire una cosa? Questo è un piano di discorso che mi piace veramente poco, perché questa è una situazione molto difficile, molto drammatica. Il fatto che un uomo possa tirarsi indietro da un progetto comune andato male, a questo punto io francamente è una cosa che anche come giurista, ma professore, ma infatti io non mi riferivo all'uomo che sta a fianco alla persona che sta portando avanti la gravidanza che si tira indietro, ma se ci fosse un uomo che, visto c'è uno scambio di embrioni, si accerta, potrebbe essere l'assistito dell'avvocato Nicotera che l'ascolta, di essere lui il padre biologico, potrebbe accampare dei diritti questo padre una volta? Potrebbe, questo lo lascio all'avvocato, che sicuramente troverà tutti gli spazi che pure ci possono essere nell'ordinamento, ma a quel punto io, più che seguire una via con profili contenziosi di questo genere, con uno sdoppiamento tra il padre biologico e la madre gestazionale, ma allora perché, ritorno alla mia affermazione di prima, se la donna dovesse decidere di non interrompere la gravidanza, dovesse decidere di portarla a termine e di partorire, non è obbligata dall'ordinamento a riconoscere il figlio. E quindi questo potrebbe aprire uno scenario che potrebbe essere molto più lineare rispetto a disconoscimenti e riconoscimenti, ci potrebbe essere un'ipotesi però di adozione. È una scelta personalissima che spetta ovviamente lei capisce, certamente, però lei capisce che mettere in contraddizione la rivendicazione biologica di un padre con una madre gestazionale che non rinuncia al prodotto del parto è una cosa che mi sembra abbastanza grave, fatta sulla pelle poi alla fine del bambino. No, ma questo certo. Professoressa Morresi, poi avvocato Nicotera, poi ci sono tanti ascoltatori, comunque lo scenario andrà a profilarsi, qualunque possa essere, sarà, ecco, io lo dico brutalmente, magari con una sintesi giornalistica, un gran casino, professoressa Morresi. Sì, perché tra l'altro vorrei comunque dire che nel padre, capisco tutte le considerazioni del professor Santosuosso, ma lì c'è un unico padre biologico, in questo caso, e quindi c'è un'oggettività. Il problema è che se noi eliminiamo Biologicamente anche un'unica madre anche no, le madri naturali sono due, lì c'è un unico padre naturale, perché il padre, l'unico contributo che dà è quello del liquido seminale, e quindi lì la figura è molto chiara. Poi la questione legislativa, disconoscimento o meno, viene dopo, però se noi continuiamo sulla strada di distrarci da quello che avviene nei corpi delle persone e di quello e continuiamo a insistere con delle nostre costruzioni a prescindere di quello che avviene nei corpi e nell'oggettività dei rapporti delle persone, noi non usciremo mai, non solo da questo caso che secondo me è appunto non risolvibile, ma non usciremo mai da tanti altri casi che più o meno volutamente potranno venire, perché poi la vita ci riserva sempre tante sorprese. Io vorrei, avvocato Nicotera, ha sentito il professor Santosuosso? Cioè, mi sembra di capire che dal punto di vista della legge la madre è quella che porta avanti la gravidanza, proprio anche per la legge, cioè non è che si può dire una volta che nascono questi gemelli, non è più lei la madre. Sì. Quello riconosce la legge, non si può fare altrimenti. Sì, ma io sono d'accordo. E allora che diritti può accampare la sua assistente? Ma che diritti? Io ribadisco quello che ho detto poc'anzi, nel senso che la legge praticamente disciplina la fecondazione assistita e detta determinati principi. Qui vi è stata una violazione, vi è stato un atteggiamento che verrà accertato, se verrà accertato definitivamente che vi è stato effettivamente... Sì, ma per dire che un risarcimento ci sarà sicuramente, sarà anche corposo, ma il diritto di avere i figli, cioè la legge li riconosce alla madre che porta avanti la gravidanza? Non... Sì, la legge riconosce alla madre che porta avanti la gravidanza il diritto se tutto si è svolto secondo la legge, ma la legge non disciplina l'errore. Cioè questa legge di cui noi ci stiamo occupando e stiamo parlando certamente non poteva contenere l'ipotesi dell'errore. Qui siamo davanti a un caso unico e particolare in cui è stato commesso un errore e dovrà essere fatta chiarezza. Noi non vogliamo apparire come coloro che vogliono a tutti i costi appropriarsi dei bambini che non sono propri, oppure anche se sono propri dal punto di vista genetico e naturale, e poi per quanto è avvenuto si è verificata appunto questa situazione anomala, drammatica, come la vogliamo chiamare, però sicuramente, e questo me ne potrà dare atto chiunque, questi genitori che io assisto dovranno avere attimo di chiarezza definitivamente. Ma questo certamente, ma credo che l'unico diciamo risarcimento che si potrà avere sarà dal punto di vista dei soldi, non certo appunto di... No, io non sono convinto di questo. Io ritengo anche che, dei figli. Perché se dovrà essere fatta giurisprudenza, qualcuno dovrà pronunciarsi, ma quando qualcuno dirà che effettivamente la mamma che ha portato in grembo questi feti e poi nascituri futuri e il papà che sta accanto a lei avranno l'unico diritto ad essere loro i genitori, ne prenderemo atto, però sicuramente rimarrà un'anomalia. Ma questo certamente. Dopo il traffico, anche gli ascoltatori, ringrazio e saluto il professor Amedeo Santosuosso che ci ha dato importanti delucidazioni dal punto di vista della legge. Dopo il traffico, ripeto, Aldo, Renato, Onorato, state lì che vi do la parola. Allora, Aldo da Cuneo, buongiorno, che idea si è fatto di questo caso complicatissimo? Buongiorno, io sono un padre adottivo di due ragazze, premesso quindi questo e quindi capisco il dolore di tutte le famiglie coinvolte. E secondo me in questo caso la coppia che la sta levando in grembo è la coppia destinata, salvo che succeda qualcosa, a gestire questi figli. Vabbè, quindi... E poi volevo fare una domanda, sì. Ma non le sembra che questa situazione sia anche il sintomo di una società ormai orientata all'egoismo dei diritti propri, alla faccia di tutto quello che... Guardi, allora, l'audio non è dei migliori. Comunque, la domanda è se questa società è orientata a una sorta di egoismo. La giro alla professoressa Morresi, ma ne conosco già, immagino, la risposta, visto che le scrive spesso su Avvenire. Immagino che lei dica di sì. Ma diciamo che non è questo il caso, cioè questo è un caso particolare, però in generale si è affermato un diritto delle coppie a avere figli che porta comunque in generale, e ripeto non è questo il caso, perché che porta in generale però a pensare che a tutti i costi bisogna averlo, senza pensare a quelle che sono le esigenze dei bambini. Sì, in questo, dei bambini. In questo caso però si può proprio dire questo assolutamente no, che hanno fatto una fecondazione assistita con la legge 40 prevista dallo Stato italiano, che viene considerata anche da molti come una legge molto restrittiva, per cui hanno fatto tutto però secondo i crismi della legge. Con queste tecniche si afferma in generale, ripeto, non è per questo caso, una mentalità per cui al figlio c'è diritto, e questo è il problema a cui si arriva, per cui diritto non ci si rende conto delle contraddizioni. Diritto no, però è una fortissima aspirazione, legittima, voglio dire, diritto. Ma il desiderio fortissimo non può mai essere un diritto, cioè non tutti i desideri possono diventare diritti, questo tutti i desideri sono, molti desideri, non tutti, molti desideri sono legittimi, innanzitutto quello di avere dei figli, ma il diritto al figlio non esiste. No, no, questo e è diritto al figlio, no. Il modo di parlare anche, che tutti noi, metto anche me in gioco di questo evento, ci fa vedere come a volte, no, si dice allora se li scambiano uno l'altro, cioè, come se fossero degli oggetti. No, ma certo, ma queste sono battute, sa, gli sms a volte sono anche brutali, ne leggo anche di peggiori, però, come gente che scrive va, basta abortire, risolvere il problema. Sono scelte talmente personali, voglio dire, anche drammatiche, legittime se uno le ritiene, ma voglio dire, ma non è che si possono condire così via in 30 caratteri. Fatemi sentire Stefania da Firenze. Buongiorno Stefania. Sì, buongiorno. Dica. Io penso che al di là dell'errore che hanno fatto questi, che è veramente gravissimo, che si sono rivelati incompetenti, io credo che debba prevalere il buon senso. In una tragedia simile, dove sono coinvolte due donne che tutte e due ameranno questi bambini, credo che la vera vittoria sia il buon senso delle due mamme, che secondo me dovrebbe toccare alla mamma genetica, però la presenza dell'altra mamma credo che sia a questo punto tollerata e vista come un atto d'amore nei confronti di questi figli che tutti e due avranno. Ma che si fa, Stefania? Intanto che lei trascura i padri, adesso non è che voglio fare un discorso, ma ci sono anche degli uomini. Io le darei ai veri genitori genetici. Lei li darebbe ai veri genitori genetici? Ai genitori genetici, perché l'errore è stato della cosa, però questi genitori che le portano avanti, la mamma che porta avanti la gravidanza dell'altra mamma, saranno comunque secondo me presenti nella vita di questi ma bambini. Certo, ma presenti, sa, lei, scusi se le faccio, lei è madre? Io ho due figli. Capisce secondo che me comunque è vero, il diritto ad avere figli non è una cosa che... No, certo, ma lei avendoli portati in grembo capisce che... Insomma, io lo capisco perfettamente, cioè, però toglierli alla madre, mi sentirei di toglierli ai genitori veri, e al tempo stesso mai e poi mai abortirei per fare un dispetto a quegli altri. No, no, carità. Questo ci mancherà. Però secondo me, siccome la legge non... la giustizia non è legge, secondo me con la legge non si trova una soluzione, deve essere il buon senso delle mamme, che tutte e due, e anche babbi, amano questi figli. È la cosa più bella che possa succedere. Lo so. Abbiano un doppio di genitori che possono pensare a loro. Addirittura un doppio genitore, sì, cioè comunque un genitore, un genitore per l'anagrafe e una presenza costante nella vita. Sì, perché l'amore di tutte e due. Questo, Stefania, è un mondo un po' utopico, per carità, però questa è la sua considerazione. La ringrazio, vorrei andare a Milano da Renato. Buongiorno. Buongiorno a tutti. La mia opinione è che in questo caso di errore, già le ragioni etiche e morali vanno messe da parte, perché l'errore è già stato fatto e vengono prese eventualmente prima in considerazione le ragioni etiche e morali. Quelle che vanno tenute in considerazione sono quelle appunto legali e quelle, se vogliamo, anche razionali. In questo caso la mia opinione è che la coppia che è padre e madre biologici dei bambini hanno tutti i diritti di richiedere l'affido dei figli, ci dovrebbe essere un risarcimento cospicuo per la coppia che sta portando avanti la gravidanza. Io parlo di coppia perché il padre non viene mai tenuto in considerazione, oppure messo in secondo piano. No, ma il risarcimento ci sarà, ma ci sarà evidentemente per tutte le persone coinvolte, caro Renato, ma questo è il minimo, so che in questi casi si dice ma si compra, si cercano i soldi, no, però c'è un risarcimento morale ci deve essere, perché comunque da qualunque lato la si guardi è stato fatto un disastro, è stato prodotto. Ma certo, sperando che sia solo questo il disastro che è stato fatto e non siano stati scambiati gameti o cos'altro, insomma. E vabbè, se no la cosa sarebbe un casino planetario. Questo bisognerà poi accertarlo, ci saranno delle indagini. Professoressa Morresi, ma non è che sopravvalutiamo l'eredità genetica? Quante persone si dice hanno un figlio che poi in realtà è al di fuori della coppia se si facesse un esame genetico, no? Quanti padri in realtà non sono i padri veri dei figli che stanno crescendo e magari non lo sapranno mai? Da che mondo è mondo, ma sappiamo che succede. Certo, ma vede, c'è una differenza sostanziale. Nel caso di quello di eterologa naturale, diciamo così, non è un evento programmato. Mentre qui si programma, non qui, ma nell'eterologa si programma prima del concepimento, cioè si decide prima del concepimento che chi nascerà non crescerà col genitore, con almeno uno dei genitori che lo ha generato. Cioè, quindi il fatto di non saperlo, cioè io potrei essere non genitore biologico dei miei figli, però il fatto che non lo so li considero come miei. Non è non lo so, è questione di programmazione, cioè a tavolino si dice allora facciamo questo figlio e uno di chi lo ha generato non lo crescerà mai, questo figlio crescerà comunque con un'altra persona. E questo è una cosa programmata prima, è profondamente diverso dal fatto che all'interno di una scelta individuale, di un rapporto personale, poi ci sia una gravidanza che può avvenire. È una programmazione fatta a freddo, prima. È la programmazione fatta a freddo diverso, che secondo lei cambia le questioni. Io mi devo fermare qui, vi ringrazio ovviamente, ma seguiremo il caso. Ringrazio l'avvocato Pietro Nicotera che è stato con noi, così come la professoressa Assuntina Morresi che interroghiamo spesso quando ci focalizziamo su questi temi etici. Ci fermiamo, potete riascoltare tutto sul sito radio24.it con Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Alessandro Marco Tulli. L'appuntamento è rinnovato a domani. Noi ci siamo sempre alle 6.30 questa settimana, poi sarò in ferie. Mi scrivono, ma fai una settimana di ferie al mese? Ma anche due se si potesse. Ciao e a domani, Peter Bescapè, a domani.